ora qui sdraiato sul divano, mentre penso a te con il mio cuore invano. Ora dimmi che fai senza di me, se ci pensi ancora. Tu che fino a ieri mi chiamavi amore, con le tue dolci mani su di me. Mi dicevi ti amo ed io lo dicevo a te. Ci scioglievamo e su quel letto ci amavamo, ma in quel momento so che non pensavi a me. Tu sei scappata così in fretta dalla mia vita, ora capisco il perché. Tu mi hai lasciato, qui c'è un altro come me, al posto mio con te. Potevi dirlo che non volevi più restare, potevi dirlo che a te piace solo volare, come una farfalla che non trova mai il suo fiore. Ti vedo passeggiare mano nella mano con quell'altro lui mentre gli dici ti amo. Non ti senti strana un po' dopo neanche un mese? Tu che per sbaglio ieri mi eri chiamato amore. Ma se ci penso a cosa sei, io ti comprendo. Tu non stai bene se nel tuo cuore non c'è l'inferno. Tu ami solo per il gusto di volare, e a quel fiore che hai toccato lo fai morire. Tu sei scappata così in fretta dalla mia vita, ora capisco il perché. Tu mi hai lasciato, qui c'è un altro come me, al posto mio con te. Potevi dirlo che non volevi più restare, potevi dirlo che a te piace solo volare, come una farfalla che non trova mai il suo fiore. Scappata così in fretta dalla mia vita, ora capisco il perché. Tu mi hai lasciato, qui c'è un altro come me, al posto mio con te. Scappata così in fretta dalla mia vita, ora capisco il perché. Tu mi hai lasciato, qui c'è un altro come me.